Prega Marta nella sera. Nessun Dio risponderà. Ogni giorno una preghiera. E una falsa libertà. La giornata è stata dura, piena di contrarietà. Il lavoro e poi la scuola. E un ragazzo che non va. Urla Marta, non pregare. Se tuo padre chiederà. Salario o la pagella per la sua complicità. Digli di no, digli di no. Sono niente, ma ho vissuto come te. Sempre chiuso nello specchio, aspettando un altro me. Lotta Marta ne...